Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La Presidente Casellati ha deciso di votare a favore di un ordine del giorno presentato dalle opposizioni per dare una deroga a Gasparri per convocare una giunta illegittima lunedì pomeriggio. La Presidente Casellati con oggi ha deciso che non è più una parte terza, non solo nella giunta del regolamento, ma anche in aula. È la dura accusa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, della maggioranza di governo, ora per voce avete sentito del senatore Marcucci del PD, contro la Presidente del Senato Casellati, che oggi sul caso Gregoretti, nella giunta per il regolamento del Senato, nel decidere quale dovrebbe essere la data per votare, per rinviare o meno a processo Salvini, ha votato la Presidente del Senato Casellati con l'opposizione e quindi la maggioranza di governo l'accusa di non essere più super partes. Si voterà quindi il 20 gennaio. Una questione incombe anche sulle prossime regionali, ecco perché c'era stato il nodo del voto, della data in particolare. Ne parleremo con una dovizia di dettagli naturalmente in questa ultima puntata della settimana. Siamo a venerdì per fortuna per molti, diciamo, e così come invece parleremo anche di un caso di cronaca molto particolare, perché è facile appunto in questo caso, come vi racconterò, mettersi dalla parte di chi ha ucciso, dell'omicida, però vedrete che la questione è piuttosto complessa e poi tutti devono naturalmente rispettare la legge, ci mancherebbe che ognuno faccia giustizia da solo in questo modo. Per alleggerire ci sarà chi ci racconterà in anteprima delle canzoni ascoltate che ci saranno poi a Sanremo quando inizierà a febbraio. Sembra che ci sia poca politica, poca denuncia sociale e molti sentimenti e molto rock e rap, e poi capiremo con danze o meno della pioggia che abbiate fatto in questa settimana se arriveranno le piogge. Per una volta ce le dobbiamo per forza raccomandare, visto che le polveri sottili tengono in ostaggio gran parte del centro-nord Italia. Quindi allacciate le cinture, stiamo per partire. Vi ricordo, per interagire qui con Effetto Notte, pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, oppure li potete scrivere inviandoli via SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Lo ricordo, 349-238-6666. L'incontro governo sindacati, presentato il piano dell'esecutivo per il taglio del cuneo fiscale sui redditi fino a 40.000 euro sarà per 16 milioni di lavoratori. Caso Gregoretti, lunedì la decisione del voto su Salvini, polemiche sulla Presidente del Senato Casellati che ha votato con l'opposizione. Il PD accusa, non è super partes. Sardine saranno in 30.000 domenica a Bologna e lanciano l'invito al Presidente del Consiglio Conte per confrontarsi. Uccise il suocero che abusava della figlioletta, condannato a 20 anni, un 35enne di Rozzano nel Milanese, 18 anni al complice, il PM voleva 2 ergastoli. Medici aggrediti in reparto, si moltiplicano i casi, Torino si organizza con i vigilantes in corsia. Criminalità, area grigia tra mafiosi e società civile, allarme della DIA, Direzione Investigativa Antimafia, i clan foggiani emulano l'Ndrangheta. Sanremo dall'ascolto, in anteprima dei brani protagonisti al Teatro Ariston dal 4 all'8 febbraio, emerge che sarà il festival dei sentimenti tra rap e anni 80. Partiamo quindi dalla politica economica del governo giallorosso. L'ipotesi illustrata dal governo oggi ai sindacati riguarda un taglio del cuneo fiscale che interesserà i redditi fino a 40.000 euro, arrivando a 100 euro al mese per chi guadagna fino a 28.000 euro, poi per scendere progressivamente. Il governo punta a ridurre le tasse per i redditi fino a 40.000 euro. A partire da luglio, il taglio del cuneo fiscale interesserà così le buste paga di circa 16 milioni di lavoratori. L'esecutivo incontra i sindacati e scopre le carte su come pensa di utilizzare 3 miliardi stanziati dalla manovra per sforbiciare il cuneo a vantaggio dei lavoratori. 3 le fasce di reddito coinvolte dal taglio del cuneo fiscale, da un minimo di 26.600 euro a un massimo di 40.000. In sostanza, chi ha beneficiato degli 80 euro di bonus otterrà 20 euro in più, arrivando a 100 al mese, e ci sarà anche un ampliamento della platea. Poi, con un meccanismo di decalage, si arriverà a 80 euro per chi ne guadagna 35.000 fino all'azzeramento del bonus per i redditi di 40.000 euro. È un primo intervento, dice il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Primo passo concreto nella direzione giusta e che naturalmente noi consideriamo il primo tassello di una più ampia azione di riforma fiscale volta a sostenere il lavoro. Il governo, ha spiegato Giuseppe Conte a CGIL, CISL e UIL, lavora anche a una riforma complessiva dell'IRPEF con l'obiettivo di diminuire le tasse per famiglie, lavoratori e pensionati. Soddisfatti i sindacati. Una giornata importante, dice Maurizio Landini, segretario CGIL. È un primo risultato perché naturalmente nessuno diventa ricco, ma la strada è quella giusta. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Passiamo al caso Gregoretti. Lunedì ci sarà il voto in giunta sull'autorizzazione a procedere contro Salvini per il caso della nave della Guardia Costiera bloccata per alcuni giorni al largo delle coste italiane dall'allora ministro dell'Interno Salvini, con più di 100 migranti a bordo. In tribunale, dice Salvini, ci vado a testa alta. Il 20 gennaio si deciderà se Matteo Salvini è un criminale o un italiano, dice il leader della Lega. Ma nella giunta del regolamento del Senato è stato determinante oggi il voto della presidente del Senato Casellati, che si è schierata con l'opposizione. Casellati è scorretta e non è più super partes, attacca il leader del PD Zingaretti. Lei replica respingendo ogni ricostruzione dei fatti che dice in qualche modo possa mettere in discussione la terzietà della sua azione, ovvero connotarla politicamente. Cercheremo tra poco di chiarire appunto con più dettagli questa vicenda. Nel frattempo le sardine, il movimento delle sardine, annuncia che domenica sarà in piazza Bologna per una grande festa e lanciano un invito a Conte, il presidente del Consiglio, per un confronto. Il Consiglio dei Ministri oggi ha assegnato altri 208 milioni di euro ai territori colpiti dalle alluvioni del novembre scorso, dopo i primi 100 milioni stanziati a dicembre, in gran parte a Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte. I danni complessivi sono però molto superiori, stimati dalla Protezione Civile in 5,6 miliardi di euro, di cui 1,1 per i costi dell'emergenza e 4 miliardi e mezzo per danni a edifici, infrastrutture e attività produttive. E siamo alla crisi libica, tutto ormai pronto per la conferenza di Berlino di domenica, dove un vincitore c'è già, il generale Haftar ottiene con la sola presenza il riconoscimento internazionale. Le diplomazie si preparano alla conferenza sulla Libia che si terrà domenica a Berlino. Il Cremlino fa sapere che all'appuntamento prenderà parte anche il presidente russo Putin, mentre a rappresentare gli Stati Uniti sarà il segretario di Stato Pompeo. Il presidente turco Erdogan oggi intanto è tornato ad attaccare il generale Haftar, accusandolo di essere inaffidabile visto che ha continuato a bombardare Tripoli nonostante il cessate il fuoco. L'uomo forte della Cirenaica, dal canto suo, ha scritto a Putin ringraziando per l'impegno e assicurando di essere pronto anche a tornare in Russia per trovare una soluzione pacifica del conflitto. Ad intervenire sulla crisi libica e anche l'Egitto, il ministro degli esteri del Cairo, Shukri, ha detto che l'annuncio della Turchia sull'invio di militari in Libia rischia di avere un impatto negativo sulla conferenza di Berlino e sulla situazione interna del paese nordafricano. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La guida suprema, parliamo di Iran, la guida suprema iraniana Ali Khamenei, durante il suo sermone a Teheran, oggi ha definito il presidente americano Trump un pagliaccio e ha ribadito come l'Iran abbia dato con il suo attacco dell'8 gennaio, per il quale oggi sono stati ricoverati 11 soldati americani, dice Khamenei, uno schiaffo in faccia agli Stati Uniti responsabili dell'assassinio del generale Soleimani, e ha definito Israele un tumore collocato dai nemici nella regione. Il 22 e 23 gennaio le isole dell'Egeo protesteranno per la pressione migratoria e l'inerzia del governo greco, che aveva promesso di portare sulla terraferma 20.000 migranti, ma non lo ha ancora fatto. La nostra Valentina Furlanetto è stata a Lesbo, dove il campo profughi di Moria è al collasso. Il 70% delle persone ospitate è afghano, il 43% sono minorenni. Il reportage da Lesbo andrà in onda domani, lo ricordo, domani mattina alle 8.15, dopo il giornale radio, e questa è un'anticipazione. Quando siamo stati deportati in Afghanistan dalla Norvegia è stato terribile, ho dovuto lasciare le mie amiche, i compagni di scuola. In Iran ci sono molti profughi afghani, ma vengono discriminati. Allora siamo ripartiti e ora siamo qui. Sì, certo che lo rifarei il viaggio per venire qui, perché lì, in Iran, non avevo speranze e non avevo diritti. Qui sono libera. Spirit of my silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you. Isola di Lesbo, 312 km da Istanbul e 2500 da Bruxelles. l'Europa fisicamente e simbolicamente è lontana e invisibile. Davanti a me, sull'altra sponda, vicinissima a Lesbo, c'è la Turchia, alla quale l'Europa ha delegato la sicurezza della sua frontiera orientale e per farlo ha pagato 6 miliardi di euro. Periodicamente Erdogan ricorda all'Europa che è lui a decidere le regole del gioco. Periodicamente qui arrivano ondate più o meno intense di migranti. Negli ultimi 6 mesi, ad esempio, gli arrivi a Lesbo si sono triplicati. 21.000 anime sopravvivono in un campo, Moria, che scoppia. Siamo alla cronaca. Più forze dell'ordine e anche più magistrati in arrivo a Foggia dopo la serie di attentati anche delle ultime settimane. E proprio sulla quarta mafia lancia un avvertimento la direzione investigativa antimafia nella sua relazione semestrale al Parlamento. Le bombe di quest'inizio d'anno lo avevano già ricordato. A Foggia la quarta mafia punisce chi si ribella. Una mafia spietata che conta su un contesto omertoso e che sta provando ad imitare l'andrangheta. Nella sua relazione la direzione investigativa antimafia analizza le trasformazioni che hanno portato i clan del Gargano a crescere e poi a cambiare. Non più solo singoli clan, quindi, ma una struttura con strategie condivise che può contare su una terra di mezzo, legge fatta dell'area grigia che da sempre fa fare il salto di qualità alle mafie. Mafie che provano tutte a controllare gli appalti per i rifiuti, facendo registrare un'impennata dei crimini ambientali. Nella relazione al Parlamento la DIA mette in guardia inoltre dalla radicata penetrazione dell'andrangheta nel mondo politico. Quanto alla camorra invece a preoccupare sono soprattutto le batterie di aspiranti camorristi. E sul fronte della mafia siciliana si segnala il rapporto tornato ad essere più forte tra Cosa Nostra e gli americani. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo della violenza contro i medici, personale ospedaliero. Un medico e un infermiere sono stati aggrediti nel reparto di pneumologia dell'ospedale San Giovanni di Dio a Ruggi d'Aragona a Salerno. I sanitari sono stati picchiati dopo la morte di un paziente avvenuto in corsia. Ennesimo episodio di violenza contro i camici bianchi in Campania, a Salerno, dove un medico e un infermiere sono stati aggrediti e picchiati all'ospedale San Giovanni di Dio dopo la morte improvvisa di un paziente ricoverato. E sempre contro le aggressioni, l'ASL di Torino ha deciso, da febbraio, di ricorrere alla vigilanza armata nei pronto soccorso. Intanto resta in attesa di approvazione la legge che riconosce lo status giuridico di pubblico ufficiale agli operatori sanitari, che consentirebbe di inasprire le pene per gli aggressori. Un fenomeno in aumento in tutta Italia e in particolar modo al sud e in Campania, dove i piani di rientro dal deficit sanitario hanno bloccato le assunzioni del personale. Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici di Salerno. Sembra che veramente i sanitari in genere, medici, infermieri ed altri, non vadano la mattina al lavoro in un ospedale, ma in un campo di guerra. Il problema fondamentale ed è unico, che oramai non c'è più tempo neanche per guardare chi si cura. Noi abbiamo perso 14.000 persone, figure del mondo della sanità. 14.000 mica sono un numero da poco. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È stato condannato a 20 anni di carcere il 35enne che ha ucciso il suocero accusato di aver abusato della nipotina di 6 anni, cioè la figlia dell'uomo, a Ruzzano nel Milanese. Il suo complice, accusato di averlo accompagnato in motorino sul luogo del delitto, è stato condannato a 18 anni di carcere, pena molto inferiore ai 2 ergastoli chiesti dal PM perché sono state riconosciute le attenuanti generiche in considerazione al forte turbamento dell'uomo sconvolto dagli abusi subiti dalla figlia. Ne parleremo in seguito in questa puntata di questo caso. Lavoro e stress, dimostrata per la prima volta l'associazione tra burnout, cioè la sindrome dello stress da lavoro, e le patologie cardiache, in particolare in aumento del 20% del rischio di fibrillazione atriale. L'argomento è al centro dello studio americano pubblicato dallo European Society of Cardiology, condotto su 11.000 soggetti a rischio per 25 anni. I ricercatori hanno individuato frequenti disturbi del ritmo cardiaco potenzialmente mortali, come aritmie, ictus e infarto, come conseguenze dello stress sul lavoro prolungato e continuativo. Lo stress quindi può avere serie conseguenze non solo di natura psichica ma anche fisica. Turni massacranti, eccessivo carico di lavoro, carenza di personale sono tra i fattori principali del burnout, che in alcuni casi ha condotto ad alcolismo, depressione e anche al suicidio. La sindrome colpisce più spesso le persone che lavorano nelle professioni di aiuto, come i medici e gli operatori sanitari, ma anche insegnanti, avvocati o poliziotti. Una notizia dalla moda: Jean Paul Gaultier dice addio alle sfilate e annuncia che il suo ultimo défilé di alta moda, che segnerà 50 anni di attività, è quello prossimo di Parigi il 22 gennaio. L'annuncio in un comunicato stampa e sui social: l'ultima sfilata si terrà al Théâtre du Châlet. Lo stilista, 67 anni, però non si ritira, ha precisato infatti che proseguirà a lavorare nella moda con un nuovo concept. Sanremo, dall'ascolto in anteprima dei brani protagonisti al Teatro Ariston dal 4 all'8 febbraio prossimi, emerge che sarà questo il festival dei sentimenti tra rap e anni 80, ma ci svelerà qualcosa chi le ha potute ascoltare oggi per noi. Per chiudere, una notizia che riguarda l'apocalisse. Giovedì 23 gennaio sapremo se la fine del mondo è più vicina. A dirlo sarà l'aggiornamento delle lancette del celebre orologio dell'apocalisse Doomsday Clock, che dal 1947 viene regolato ogni anno dalla Federazione degli Scienziati Atomici, in modo da scandire il tempo che resta all'umanità per evitare la catastrofe dovuta alle armi nucleari, ai cambiamenti climatici e alla minaccia delle nuove tecnologie emergenti. L'annuncio della decisione per questo 2020, a cui concorrono anche 13 premi Nobel, sarà dato a Washington durante il 23 gennaio, appunto, durante una conferenza stampa internazionale convocata per le 16 ora italiana. Insieme agli scienziati parteciperanno anche l'ex segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, l'ex alto commissario ONU per i diritti umani Mary Robinson. In diretta mondiale, quindi, sapremo finalmente se le tensioni tra Stati Uniti e Iran e gli spaventosi incendi in Australia hanno contribuito ad accelerare la corsa verso la catastrofe. Per il momento non corriamo più di tanto, ci fermiamo giusto per aggiornare chi sta viaggiando, tornerò tra pochissimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ecco, sapevo che iniziavano già i commenti sul fatto di cronaca nera, di cui poi vi parlerò più tardi, e che naturalmente ha degli aspetti che creano anche dell'empatia, diciamo, però che va controllata, proprio perché va contestualizzato anche questo caso in ciò che è avvenuto, in chi sono le parti in causa, le vittime, eccetera. Però di questo parleremo dopo. Avete sentito che prima di tutto ci occuperemo di politica, sempre, anche perché qui insomma siamo a scadenze importanti. Roberta Giordano sempre con voi, vi ricordo, per i vostri messaggi, commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il 349 238 6666. E direi subito di raccontarvi, a chi non avesse acceso puntualmente le 21, quali sono i fatti principali della giornata. C'è stato l'incontro governo-sindacati, è stato presentato il piano dell'esecutivo per il taglio del cuneo fiscale, ne parleremo in sintesi. Poi il caso Grigoretti, che diciamo è un po' il caso della giornata. Sardine saranno in 30.000 domenica a Bologna e lanciano l'invito a Conte per confrontarsi. E poi il fatto di cronaca di cui parleremo: uccise il suocero che abusava della figlioletta, condannato a 20 anni, un 35enne di Rozzano nel Milanese, 18 anni invece al complice, il PM voleva 2 ergastoli. Medici aggrediti in reparto, si moltiplicano i casi, ne abbiamo parlato più volte con Effetto Notte. A Torino si organizza con i vigilantes in corsia. Criminalità, area grigia tra mafiosi e società civile, l'allarme della direzione investigativa antimafia, che dice i clan foggiani emulano l'andrangheta. E poi Sanremo, dall'ascolto in anteprima dei brani protagonisti al Teatro Ariston, la prossima edizione dal 4 all'8 febbraio, emerge che sarà il festival dei sentimenti tra rap e anni 80. Quindi ci concentriamo subito sulla politica italiana e diciamo che mentre ci avviamo a grandi passi, verso le elezioni regionali di Emilia-Romagna, che sono le più cruciali, considerate più cruciali, e Calabria il prossimo 26 gennaio, quindi vedete, ci avviciniamo a grandi passi, sentite. Tanti sono però gli argomenti, tanti argomenti affollano il dibattito politico, dal tema della prescrizione che insidia l'unità della maggioranza di governo, di cui abbiamo già parlato ieri, la bocciatura sempre avvenuta ieri da parte della Corte Costituzionale con la conseguente ira di Salvini della proposta di referendum sostenuta dal centrodestra, in primo piano la Lega, che mirava a passare a un sistema elettorale a maggioritario puro. Oggi però l'attesa era per il caso della nave Grigoretti, nave della Marina Militare con 131 migranti a bordo, che nel luglio scorso l'ex ministro dell'interno Salvini tenne bloccata per alcuni giorni di fronte alle coste italiane. Allora saluto subito la nostra Barbara Fiammeri, che chiude in bellezza questo Effetto Notte di venerdì. Cara Barbara, buonasera a tutti. Allora, il nodo di questa vicenda Grigoretti sino a ieri era quello della data. Nel senso che in un primo tempo si diceva che la giunta per l'immunità doveva votare il 20 gennaio per decidere se autorizzare o meno il processo nei confronti di Salvini accusato di sequestro di persona. Dopodiché questo però è diventato l'oggetto del contendere, perché Salvini a un certo punto, che vorrebbe appunto che non ci fosse questa autorizzazione, diceva votiamo a questo punto il 20 gennaio prima delle fatidiche elezioni regionali verso le quali dicevamo ci stavamo avvicinando a grandi passi appunto, e sono diceva perché per qualcuno, per i detrattori, Salvini voleva così vittimizzarsi e far vedere al popolo, come lo chiama lui, che la maggioranza lo condannava, lo autorizzava il processo, mentre la maggioranza aveva chiesto di rinviarlo dopo il 26 gennaio, questo voto sul caso Gregoretti, e invece l'opposizione accusava di opportunismo, di vigliaccheria la maggioranza di governo. A questo punto però che cosa è successo, Barbara, oggi? Che nella giunta per il regolamento del Senato si è votato per decidere la data e sembrava che si fosse in parità, poi è intervenuta col suo voto, poi tu confermerai o smentirai, la Presidente della Camera Casellati, che ha votato schierandosi con l'opposizione per decidere che questo voto su Salvini ci sarà il 20 gennaio. E allora il PD con Zingaretti in prima linea l'hanno accusata di non essere più super parte, se lei dice no, questa è una ricostruzione che non sta né in cielo né in terra, nessuno può mettere in dubbio la mia terzietà. Vogliamo sentire Marcucci del PD che cosa ha detto? Sentiamo. La Presidente Casellati ha deciso di votare a favore di un ordine del giorno presentato dalle opposizioni per dare una deroga a Gasparri per convocare una giunta illegittima lunedì pomeriggio. La Presidente Casellati con oggi ha deciso che non è più una parte terza, non solo nella giunta del regolamento, ma anche in aula. E ora De Petris di Liberi Uguali. 5 minuti prima si stabilisce che il termine dei 30 giorni sia perentorio e dopo 5 minuti si procede, diciamo, con molta tranquillità a stabilire invece che il termine non è perentorio e che quindi si può assolutamente derogare. Dopo che la Presidente ha varie volte ripetutamente affermato che lei appunto non avrebbe partecipato in generale, diciamo, al voto della Giunta, ha fatto una scelta che non possiamo non considerare di parte, perché onestamente questo non ce lo saremmo mai aspettati. Oh, Barbara, come sono andate le cose? Spiegacelo tu, che sei sempre addentro le stanze segrete no, dei palazzi romani. Beh, dovremmo, cioè la Casellati ha detto che è intervenuta per evitare, come dire, uno stallo istituzionale. Perché erano 6-6 con i voti. Perché erano 6-6. Certo, il fatto che il Presidente del Senato si schieri con una parte o con l'altra, insomma, in ogni caso fa discutere, cioè insomma. Senti, è usuale, è successo altre volte, è un caso unico. Guarda, non te lo so dire se è successo altre volte, però certamente non è una cosa che succede di frequente. Solitamente il presidente rimane neutrale. Proprio perché appunto evita di scendere. Qui c'era un ordine del giorno, tra l'altro, c'era proprio una posizione di parte di una delle due parti, e quindi la Casellati in questo modo ha determinato l'esito della votazione, ed è un po', insomma, anomalo che un presidente scenda in campo. Anomalo. Detto però detto questo il 20 gennaio quindi si voterà per decidere appunto se si vuole mandare Salvini a processo oppure no. Però mi sembra che ci sia nell'aria, se non sbaglio, Barbara, anche l'ipotesi che le componenti, le forze politiche della maggioranza si astengano, cioè non si disertino proprio la giunta per l'immunità. E allora a quel punto, certo, vincerebbe l'opposizione di centrodestra e Salvini sarebbe salvato. Però in questo modo otterrebbe forse un vantaggio anche la maggioranza di governo, perché non potrebbe essere accusata poi dagli elettori il 26 gennaio, quando si andrà a votare per Emilia Romagna e Calabria, di aver condannato Salvini. È così un po' il quadro, diciamo, delle strategie reciproche. Cioè, adesso l'obiettivo è quello di togliere a Salvini la bandiera, diciamo, della vittima. Sì. Sacrificale. È incredibile che ormai in Italia qualsiasi cosa è utilizzata in modo strumentale, appunto, da una parte e dall'altra. Anche in questo caso il merito della vicenda conta poco, sia per chi vuole la condanna di Salvini, sia per chi invece difende Salvini. Ormai siamo sempre delle tifoserie che si scontrano l'una contro l'altra armate, e è un po' quello che è anche avvenuto con la legge elettorale, no? Nel senso che, per esempio, prendiamo sulla legge elettorale lo scontro, cioè Salvini che attacca la Corte Costituzionale, che si ha bocciato il suo referendum. Sì, ricordando che solo pochi anni fa è stata proprio la Lega, il famoso Porcellum. Il Porcellum di Calderoli, sì. Lo stesso Calderoli che oggi è l'ideatore di questo nuovo maggioritario aveva ucciso, insomma, il maggioritario che era il Mattarellum che c'era fino a quel momento. Quindi si usa in modo, per questo dicevo, in modo strumentale quelli che dovrebbero essere dei momenti un pochino più alti, no? Dove il livello dello scontro entra nel merito delle vicende e si pensa anche in prospettiva alle conseguenze. E invece non mi sembra che sia questo insomma l'atteggiamento delle nostre forze politiche. Ancora una volta mi viene da dire. Sentiamo Giorgetti, oggi era effetto giorno, numero due della Lega, che cosa ha detto dopo, appunto, in particolare il risultato, l'esito di ieri, la decisione della Corte Costituzionale e il comportamento della maggioranza di governo. Io non dico che è una sentenza politica, è sicuramente una sentenza che ha degli effetti politici. Ha gli effetti politici di dare sostanzialmente il via libera, una benedizione a un sistema elettorale proporzionale che purtroppo è quello che garantisce sicuramente l'inconcludenza, il rinvio, l'incapacità di decidere tempestivamente, rapidamente, come il mondo moderno richiederebbe. Noi abbiamo cercato di dare un contributo per arrivare a un sistema elettorale efficiente, ribadisco moderno, che permetta all'elettore di dare un voto e di sapere il giorno delle votazioni chi ha vinto e permettere a chi ha vinto di governare per 5 anni. E poi sentiamo anche che cosa dice a proposito di questo governo, dice non ha la maggioranza. Tutto il comportamento da parte del governo si è proprio ritenuto in questo senso, consapevoli che non hanno la maggioranza dei voti, cercano o attraverso leggi elettorali e altre scamotage in qualche modo di garantirsi il più lungo possibile questa permanenza al potere, però prima o poi questo finirà, ecco. Questo ha detto Giorgetti oggi, effetto giorno, intervistato da Alessio Maurizi. Che ne pensi, Barbara? Ma che Giorgetti, come al solito pacatamente, dice anche delle verità, insomma, cioè? Ovvero che c'è un evidente scollamento tra quella che è l'attuale maggioranza parlamentare e il paese, visto che tutte le ultime elezioni sia il Partito Democratico che soprattutto il Movimento 5 Stelle sono stati sconfitti, quindi è evidente che c'è uno scollamento. Detto questo, secondo me è sempre sbagliato quello di voler far sì che, insomma, cioè non è un caso che la nostra Costituzione abbia previsto un sistema parlamentare e che questo sistema parlamentare si regga sulla fiducia a un governo e che non è determinato prima del voto. Se poi si volesse davvero fare chiarezza, questo mi sembra di averlo già detto ai nostri microfoni. Ridiccelo, sì. Sì, cioè l'unico sistema secondo me che è trasparente, cioè che ci dice chi sta con chi, è il sistema a doppio turno. È lì che si determinano le alleanze, perché i sistemi maggioritari hanno un limite, quello che rischiano di non essere rappresentativi, cioè che tagliano una fetta importante, no, di elettorato. Sentimenti. Avviene ad esempio in Inghilterra, in Gran Bretagna, abbiamo visto esiste questo rischio ed è un rischio molto concreto. Allora però è anche giusto la trasparenza sulle alleanze e il sistema a doppio turno consentirebbe questo, nel senso consentirebbe anche agli sconfitti di potersi schierare in modo trasparente davanti all'elettorato e dire noi appoggiamo questo tipo di coalizione piuttosto che quest'altro, e così gli elettori si potrebbero schierare decidendo appunto il loro voto, sì. E così invece però il sistema a doppio turno, caso strano, non ne parla nessuno. No, suggeriscilo appunto a Calderoli, che ogni poi elabora un sistema elettorale, chissà che magari tu non possa convincerlo. Barbara, però volevo fare sentire adesso, passando ad altro argomento, perché ancora, insomma, intanto vediamo lunedì che cosa succede in questa giunta per l'immunità. Tu vuoi fare una previsione? Hai la palla di vetro, sfera di cristallo? Io penso che non ci sarà l'opposizione, cioè la maggioranza, che la maggioranza non si presenterà. Così come dicevamo, insomma, sì, e quindi sì, vincerà l'opposizione, diserteranno la giunta. Sì. Senti, invece non hanno disertato sindacati oggi questo incontro con Conte, con Gualtieri sulla politica economica del governo, e si è parlato, c'è stata questa proposta da parte del governo di un taglio delle tasse, in particolare del cuneo fiscale, cioè le tasse nelle buste paga dei dipendenti. Si parla di 3 miliardi stanziati in manovra per il 2020 che alleggerirà la busta paga per circa 16 milioni di lavoratori, interessare dipendenti con redditi fino a 40.000 euro, ampliando di 4,3 milioni la platea del vecchio bonus Renzi, cioè per chi guadagna, diciamo, a grandi linee fino a 28.000 euro si tratterà di avere 100 euro invece che 80 a partire dal mese di luglio, quando scatteranno le nuove misure, e poi man mano a decrescere a seconda, no, del reddito. Barba, mi pare che i sindacati siano stati piuttosto soddisfatti. Vorrei però intanto prima di tutto sentire Conte, Presidente del Consiglio. È un intervento questo che si inquadra nell'ambito di una riforma che vogliamo complessiva, un primo passo verso una riforma che vogliamo complessiva del nostro sistema fiscale, in particolare dell'IRPEF, che sarà fondamentale per semplificare il nostro sistema tributario, per ridurre il carico fiscale sui lavoratori, quindi sulle famiglie. Allora, c'è stato Landini che ha detto che è una giornata importante perché dopo tanti anni c'è un provvedimento che aumenta il salario netto di una parte dei lavoratori dipendenti. Furlan della CISL che ha detto un risultato parziale ma positivo. Zingaretti ha concluso dicendo: Salvini chiacchiera, noi tagliamo le tasse. Passiamo però, Barbara, alle sardine che hanno annunciato che domenica saranno in 30.000 a Bologna e hanno chiesto a Conte un incontro per confrontarsi. C'è un avvicinamento in vista, Barbara? Ma diciamo che le sardine, le elezioni emiliane sono una, come dire, rappresentano un appuntamento anche per la prospettiva politica del Movimento delle Sardine, che è nato in Emilia, è nato con la manifestazione di Bologna e che chiaramente può avere un respiro in prospettiva lungo se in Emilia, insomma, la loro battaglia verrà confermata poi dall'arresto dell'avanzata di Salvini. Se invece Salvini dovesse vincere, oltre ad essere sconfitto il centrosinistra, anche le sardine, dici? Beh sì, bel colpo. Senti, però è vero che le sardine hanno già prenotato per l'8 marzo la piazza di Bibbiano, in questi giorni, scusami, dove sì, invece Salvini voleva chiudere la sua campagna elettorale? Sì. Che giorno? Adesso non mi ricordo. Sì, anche questa vicenda, devo dire, cioè, capisco i cittadini di Bibbiano che non ne possono più probabilmente, perché veramente… Penso di sì. Ma sì, cioè, appunto, in Italia è tutto… Come dicevi ormai, prima, dicevi, tutto un po', sì, usato in modo strumentale da una parte dall'altra. È una vicenda gravissima, no? Sulla quale pende una istruttoria, un'indagine della magistratura… Cioè, molto grave, molto delicata, e dice, se la contendono come fosse al centro di questa vicenda, certo. Cioè veramente io trovo molto squallore in tutto questo. Barbara, invece diciamo che il momento forse più simpatico di questa campagna elettorale in Emilia-Romagna, che abbiamo detto un po' la cartina di tornasole di come andranno poi le cose probabilmente dopo anche a livello di governo nazionale, è stato il bacio tra il governatore uscente Bonaccini, sostenuto dal PD, e la candidata invece alla presidenza della regione Emilia-Romagna della Lega del Centrodestra, Borgonzoni. Sentiamo questo passaggio oggi in Confindustria a Emilia-Romagna. Stefano, vogliono che ci tocchiamo la manina? Vi conoscete? Ciao, come stai? c'è stato questo siparietto in cui hai sentito Borgonzoni diceva vogliono qui Confindustriali Emilia Romagna che ci diamo la manina, e si è avvicinato Bonaccini, dice ti do anche un bacio, la baciata, che dici, può essere un, così, un segno, chiudere la campagna elettorale di galanteria forse da parte del governatore uscente. Cioè, è chiaro che questa battaglia insomma mi sembra che abbia travalicato ampiamente il confine dell'Emilia Romagna, e che è evidente gli stessi candidati, quindi sì, soprattutto la Borgonzoni, nel senso che Bonaccini comunque essendo governatore uscente ha una parte importante nella campagna elettorale, nel rivendicare i suoi risultati, quelli della sua regione, mentre la Borgonzoni è stata un po' appannata dalla presenza ingombrante di Salvini. Sì, dalla presenza di Salvini, perché è Salvini che poi ha fatto la campagna elettorale, è Salvini che, e poi anche i temi, no? Cioè i temi di questa campagna elettorale portati avanti da Salvini sono tutti di carattere nazionale. L'ultimo appunto, quello che stavamo dicendo, cioè la vicenda della nave Gregoretti, che con l'Emilia Romagna sinceramente ha ben poco a che vedere. Senti, poi ti leggo giusto due messaggi di tanti che arrivano. Francesco dice le sardine non portano via voti a Salvini, ma soprattutto i 5 Stelle delusi, mentre Francesca dice Salvini avrebbe tagliato le tasse a tutti e non solo ai lavoratori, ma non gli hanno lasciato fare. Però direi che il nostro tempo è scaduto, cara Barbara Fiammeri, ti lascio al tuo fine settimana, ti auguro un buon relax allora. Grazie anche a voi, buona serata. E buona pioggia anche da quelle parti a Roma, se no non potete camminare con le auto. Ci fermiamo momentaneamente, pausa di riflessione, di respiro, continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666, numero per SMS e WhatsApp. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, per onestà vi devo avvertire, questo è un programma che dà dipendenza. Parola di Roberta Giordano, che tutti i giorni qui in questa sfida nel raccontarvi le cose più importanti dall'Italia e dall'estero, in modo che un giorno non potrete dire io questa non la sapevo. Abbiamo scandagliato lungamente, ampiamente la politica italiana sui temi presenti nel menù di oggi, in particolare e anche dei prossimi giorni. Adesso invece ci spostiamo sulla cronaca. La cronaca nera, una storia terribile che ha particolarmente colpito l'opinione pubblica, anche perché è una di quelle vicende in cui si può essere anche fortemente tentati di stare dalla parte di chi uccide, però sappiamo che nessuno può essere al di sopra della legge, farsi giustizia da solo. Il caso è quello di un uomo di Rozzano, nel Milanese, che ha ucciso il padre dell'ex compagna poiché è accusato di aver abusato della nipotina di 6 anni. È stato oggi condannato a 20 anni di carcere, il suo complice che l'aveva accompagnato sul luogo del delitto con un motorino a 18 anni. Il PM aveva chiesto l'ergastolo ma sono state riconosciute le attenuanti. Ma chiedo di raccontarci meglio a un grande cronista del Corriere della Sera che ha seguito questa vicenda, che è Luigi Ferrarella. Buonasera Luigi. Buonasera Roberto. E grazie della disponibilità. Quindi un caso particolare questo, no? Molto particolare, non nella dinamica che era pacifica, ma nella commisurazione delicata della pena, perché questa persona il 25 febbraio dell'anno scorso va a cercare in un parco vicino a Rozzano il suocero, che era salito da Napoli per partecipare a Milano all'incidente probatorio nel quale la sua nipotina di 8 anni veniva ascoltata dai magistrati per chiarire se, come nella denuncia sulla quale stavano lavorando, fosse vero o meno che fosse stata abusata proprio dal nonno. Raggiunge questa persona in questo parco e lo uccide con quattro colpi di pistola. Oggi, allo svolgimento del processo, aveva alcune diverse possibilità di pena, la principale delle quali era quella proposta dalla procura, e cioè un omicidio volontario con due aggravanti, la premeditazione e i precedenti penali, quindi una serie di recidive. Questo avrebbe determinato la pena dell'ergastolo con isolamento diurno. I precedenti penali c'erano, scusami Luigi, te lo ricordi? Lui aveva avuto una condanna a 3 anni per spaccio di droga nel 2005 e poi altre 2 condanne, ma la più vicina nel tempo era nel 2009, quindi ormai abbastanza risalenti, per sfruttamento di manodopera e per minaccia. Quindi dicevi aveva due possibilità in questo caso. Esatto, perché nel processo con rito abbreviato, quindi che comporta lo sconto di un terzo della pena sulle pene temporanee, e invece lo sconto da ergastolo a 30 anni quando la pena è ergastolo, nel suo caso però con le due aggravanti l'ergastolo con isolamento diurno sarebbe diventato ergastolo e basta con lo sconto del rito abbreviato. A cambiare la situazione è stata la decisione del giudice, che invece ha ritenuto di concedere delle attenuanti generiche equivalenti all'effetto delle aggravanti. Questo ha fatto sì che la pena massima per l'omicidio semplice, che è 24 anni, diventasse 30 anni con la somma dei 6 anni in continuazione per la pistola. A quel punto i 30 anni, con lo sconto di un terzo legato al rito abbreviato, sono diventati 20. Senti, ma tra l'altro Luigi, poi è stato accertato che la bambina sia stata abusata? No, questo non si può dire, perché l'indagine era ancora in corso e si era svolto soltanto l'incidente probatorio nel quale erano state raccolte le dichiarazioni della bambina. Tra l'altro in questa vicenda una figura veramente da tragedia greca classica è quella della compagna, l'ex compagna della persona. Quindi la madre della bambina. Che era la madre della bambina, che la quale di fronte alla terribile prospettiva che fosse stato il padre di lei ad abusare della bambina, quindi della sua figlia di Putina, aveva scelto di affidarsi alla giustizia e quindi stava seguendo in maniera molto dignitosa il procedere delle indagini, tanto che oggi nel processo all'ex compagno accusato di aver ucciso suo padre, lei si è sì costituita parte civile contro di lui per manifestare che continua a credere nello strumento giudiziario e per non dare adito a speculazioni su interessi economici ha chiesto un risarcimento danni simbolico di 1 euro che il giudice gli ha riconosciuto, a riprova del fatto che, come poi il suo avvocato di parte civile ha voluto ribadire, lei continua a credere anche rispetto alla vicenda della bambina nella giustizia, diversamente dal compagno che, appunto, come dicevi tu in introduzione, può avere in caso di malinteso un'aurea quasi eroica, romantica, di aver compiuto un gesto che invece nella realtà è un gesto di vendetta privata, che ha lasciato la bambina senza padre, perché lui starà 20 anni in carcere, e la bambina senza nonno che è stato ucciso. Già, e tra l'altro senza avere la certezza che questi abusi siano effettivamente avvenuti. E senza neanche avere questa certezza. Una storia terribile dove hanno perso praticamente tutti. Grazie Luigi Ferrarella del Corriere della Sera e buon lavoro, buon proseguimento. Grazie a voi, buona serata. Ciao Luigi. E c'è la viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi. C'è un ascoltatore che dice queste previsioni dell'apocalisse dell'orologio che sul quale si darà un responso il 23 gennaio, dice sono robe da Nostradamus, dice Maurizio, si può dire tutto ma anche il contrario, tanto la scadenza non è verificabile dell'apocalisse e in tempo di catastrofisti e negazionisti ognuno si tiene la propria verità. Maurizio, certo è una cosa in realtà un pochino più simbolica questa del 23 gennaio, sull'aggiornamento delle lancette, ve lo ricordavo nella sintesi della giornata, del celebre orologio dell'apocalisse, no? Che dal 1947 viene regolato mettendo le lancette avanti e indietro, proprio in avanti, ogni anno dalla Federazione degli Scienziati Atomici, in base a quello che succede nel mondo, se ci sono grandi cambiamenti climatici, se ci sono eventi di guerra, armi nucleari lì pronte magari a essere utilizzate, e in base a tutte queste considerazioni e valutazioni spostano le lancette verso quella che potrebbe essere la fine del mondo. L'apocalisse è più simbolico e quasi più da monito, ecco, diciamo. E poi molti altri messaggi invece di politica. Vedo ancora su, dice per esempio questo ascoltatore, alle elezioni europee la Lega ha preso tutti quei voti, del resto anche il PD di Renzi nel 2014 all'Europea ha preso il 42%, poi si è visto come è finito, eccetera eccetera, e anche sulle sardine. Però direi a questo punto di rilassarci e di darci alla musica. Pensavi solo ai soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi. Questa era praticamente, diciamo, la melodia, i ritmi, l'atmosfera, la sonorità che ha vinto l'anno scorso la canzone di Mahmood, Soldi, al Festival di Sanremo. Invece, quali saranno le canzoni, da cosa saranno caratterizzati i testi, appunto, le sonorità del prossimo festival, 70ª edizione, quella condotta da Amadeus, che insomma, rispetto alle frasi piuttosto sessiste e verificabili, insomma, stendiamo un velo pietoso, lui si è scusato, speriamo che, insomma, su questa cosa, ecco, sia più presente a se stesso. Marta Cagnola, ciao Marta. Eccoci Roberta. Per noi, allora, in anteprima, in anteprima ha avuto la possibilità, l'onore di ascoltare questa mattina. Sì. Gran allora, segreto. Cosa succede che ogni anno in Gran Segreto i giornalisti musicali vengono chiusi in una stanza della Rai, è un rito che si fa un paio di settimane prima del festival. A chiave, con doppia mandata, sì. Sì, sì, con firme, ovviamente, perché le canzoni, insomma, ne va del festival e soprattutto ne va della carriera dei cantanti, visto che se una canzone uscisse da lì sarebbe squalificata. Certo, le ascoltiamo tutte insieme, quindi è il primo ascolto una volta sola, quindi insomma si sa che la prima impressione non è sempre quella che vale. Però darcela questa impressione. Abbiamo già qualche impressione. Allora, mi hai accolto con Soldi di Mahmood. Sì. Ebbene, quest'anno ci sono molte canzoni up tempo, come si suol dire, molte canzoni ritmate, molte meno ballad. Un tempo si diceva la canzone sanremese. Ecco, probabilmente adesso la canzone sanremese è di altro, diciamo, tipo, che è più, dici? Soldi rispetto a una canzone melodica. La canzone che si avvicina di più a Soldi, ovviamente, è quella di Elodie, perché ha il testo di Mahmood, la musica di Dardust, e quindi diciamo che Sava è un Sandia, po' insomma, un nuovo capitolo di Soldi della splendida Elodie. Tante canzoni parlano d'amore, più o meno felice, tante canzoni parlano di famiglia, c'è Giordana Angi che parla della mamma, c'è Piero Pelù che debutta a Sanremo, che parla del nipotino, perché Piero Pelù è nonno. Immaginarlo, sì, come nonno è buffa, però molto, sì. Ebbene sì, è strano pensarci, effettivamente, però dedica una canzone al nipotino, mentre Paolo Iannacci, anche per lui è un debutto, perché è un debutto da cantautore, noi lo conosciamo soprattutto come pianista, ha fatto un primo disco da cantautore, adesso debutta a Sanremo, ha dedicato un pezzo molto lento, molto intimista a sua figlia. Marta, ma la se tu canzone... dovessi dire, non so se si può dire, non so se ti puoi sbilanciare, una canzone che ti è piaciuta di più, si può dire? A me è piaciuta tantissimo la canzone di Diodato. Almeno al primo ascolto, poi magari, come si dice in gergo tecnico, qualcuna cresce. Si intitola Rumore, fa molto rumore questa canzone? È molto intensa, la sua interpretazione poi è pazzesca. Ovviamente non solo l'abbiamo ascoltata una volta sola, però diciamo che l'ascolto più affidabile sarà quello di Lunedì 2, perché Lunedì 2 le sentiremo in prova, quindi con l'orchestra, e quindi sarà un altro effetto, chiaro. Non solo, sarà proprio la resa che avranno anche i telespettatori, perché potrebbero essere, anche se l'orchestra di Sanremo sta lavorando tantissimo sui suoni elettronici che saranno gli stessi, eccetera, però poi anche l'emozione dell'artista, come viene resa sul palco, ecco, è chiaro, molte, cioè, variabili possono cambiare. È più vicina a quella che sarà la realtà dal 4 febbraio, che ci racconterà naturalmente la nostra Marta Cagnola. Ma certo, saremo là. Buona musica, ciao Marta. A presto. I'm singing in the rain. Ebbene sì, anche se amiamo il sole dobbiamo augurarci la pioggia. Sì, rassegniamoci con il nostro Paolo Corazzone di Trebi Meteo, perché ne abbiamo tanto bisogno, caro Paolo. Brava, lei finalmente cambia idea. Sì, buonasera a tutti innanzitutto. E la pioggia sta arrivando. Guarda, sono già in atto delle piogge in questo momento sulle regioni di nord-ovest, quindi la Liguria, il Piemonte, la Lombardia. Stanno arrivando anche in Toscana, in Emilia. E domani andranno a interessare gran parte del centro-nord, ma lambiranno anche il sud, quindi in qualche modo tutta Italia, chi più chi meno, verrà coinvolta da questa perturbazione in realtà non particolarmente intensa, alla fine di domani abbandona l'Italia, finita lì, però è meglio che niente, almeno un 10-12 ore d'acqua più o meno li vediamo tutti. Domani poi in giornata già al nord-ovest ci sarà un miglioramento, ti ripeto, alla fine del giorno va via tutto, però lava molto l'aria, quindi cominceremo a respirare aria più pulita, finalmente. Tra l'altro tra domenica e lunedì arriva anche un po' di vento, anche lui ci darà una mano, quindi per il momento ecco il problema inquinamento nel giro delle prossime 36 ore dovrebbe risolversi. E quindi pioggia e vento che siano i benvenuti per una volta. Grazie a Paolo Corazzone di Trevi Meteo, buon tempo a te comunque sia. Ciao caro Paolo. Grazie, buon tempo a tutti, ciao ciao. Ci ragioniamo brevemente alle 22.